English 24. Buonasera da Marta Cagnola e benvenuti al nostro consueto appuntamento con English 24. Questa sera di cosa parliamo? Beh, questa sera parliamo dei premi Oscar perché manca pochissimo, mancano poche ore alla nuova notte degli Oscar. Ma siamo andati a scovare dei vecchi discorsi, dei discorsi memorabili, quei discorsi appunto coi quali gli attori e i registi accettano e a volte non accettano la statuetta. Ma lo scopriremo tra poco. Intanto io saluto la nostra Giulia che questa volta è in collegamento da chissà dove. Un mistero. Buonasera Giulia. Buonasera a te Marta e a tutti gli ascoltatori. Partiamo da un anno abbastanza vicino, dal 2001, da Julia Roberts. Qualcuno si ricorderà di quel bellissimo abito che indossava quando prese l'Oscar per Erin Brockovich. I have a television, so I'm going to spend some time here to tell you some things. And sir, you're doing a great job, so why don't you sit, because I may never be here again. I would like to start with telling you all how amazing the experience of feeling the sisterhood. It just felt like such a triumph to me to be in that list. But let me make my dress pretty. Everybody at Universal, Kevin Mischer and everyone I've ever met in my life. Giulia, beh, tu sicuramente ricordi il vestito, vabbè, insomma, essendo tu una super esperta. Lei emozionatissima si lascia andare ad alcune considerazioni molto buffe, Giulia. Sì, lei aveva questo vestito stupendo, appunto, come dicevi tu, nero e bianco, che è entrato in tutte le storie dei red carpet, e quindi diceva, I have a television, diceva, io ho una televisione, I'm going to spend some time here to tell you some things, e poi naturalmente fa segno a tutte le persone che erano nella platea, saranno stati dei fotografi agitati, chissà quali altre persone in prima fila, dice, sir, you are doing a great job, stai facendo benissimo il tuo lavoro, ma why don't you sit, perché non ti siedi, che insomma, forse viene anche meglio in televisione. Sì, infatti non ho capito se si stava riferendo a un fotografo oppure a quel tizio che in teoria le dava il tempo, le scandiva il tempo dell'intervento, però lei subito si riferisce alle donne che erano con lei in nomination. Sì, naturalmente ricordiamo che insomma lei veniva da una serie di film molto meno impegnati, no? Questo è stato una grande rivelazione, anche questo Erin Brockovich era un film serissimo tratto da una storia vera, e quindi lei dice how amazing the experience, amazing che vuol dire strano, straordinario, amazing stories sono anche le storie di fantascienza se vogliamo, quindi quanto straordinaria è stata l'esperienza di feeling this sisterhood, questa sorellanza, potremmo dire, una parola che in americano si usa molto, sisterhood, e naturalmente con le altre quattro persone, cinque attrici, tra cui appunto lei. Tra l'altro molto americano il fatto di ringraziare sia le persone che erano in nomination con lei, sia tutta la troupe, tutto il cast del film. Sì, addirittura proprio tutto gli studios, perché dice, prima dice questa cosa carina, let me make my dress pretty, e si aggiusta il vestito, no? Perché sa benissimo di avere uno dei vestiti appunto più belli che si siano mai visti sul red carpet, poi le stava benissimo, e dice, I want to thank everybody at Universal, Universal sono naturalmente gli Universal Studios, e poi addirittura esagera e dire, I want to thank everybody, everyone I ever met in my life, tutte le persone che io ho mai incontrato nella mia vita, insomma era proprio overwhelmed, come dicono gli americani, sopraffatta dall'emozione, dalla gioia di questa statuina. Ma andiamo a sentire un altro discorso, un altro ringraziamento, quello di Robin Williams, che nel 1998 vinse il premio Oscar per Good Will Hunting. Oh man, this might be the one time I'm speechless. Oh, thank you so much for this incredible honor. Thank you for putting me in a category with these four extraordinary men. Thank you, Ben and Matt. I still want to see some ID. Thank you, Gus Van Sant, for being so subtle you're almost subliminal. I want to thank the cast and crew, especially the people of South Boston. You're a can of corn. You're the best. I want to thank the Mishpucha Weinstein. Mazel tov. And I want to thank Marcia for being the woman who lights my soul on fire every morning. God bless you. And most of all, I want to thank my father up there, the man who, when I said I wanted to be an actor, he said, wonderful, just have a backup profession like welding. Thank you. God bless you. Per una volta Robin Williams si dice senza parole di fronte a una statuetta, quella dell'Oscar, per un bellissimo film. Sì, era un ruolo bellissimo in effetti, no? Lo psicologo che aiuta Matt Damon a, così, a ritrovare un po' se stesso, e quindi lui inizia dicendo "oh man", che è un'espressione che vuol dire anche oddio, perché man è anche se viene detto nel contesto giusto e può anche essere, può avere un significato religioso, però vuol dire appunto oddio nel senso oddio che emozione, e poi si prende anche lui un po' in giro da solo e dice "this might be the one time I am speechless", perché Robin Williams non è soltanto, diciamo che è nella vita probabilmente come lo vediamo nei film, cioè estremamente verboso, e quindi dice però forse questa volta veramente I am speechless, forse questa volta non avrò parole, poi in realtà le trova, però gli viene il dubbio che l'emozione gli tolga le parole. E come si direbbe a Roma, a ridaie, anche lui ringrazia le persone che stanno attorno a lui e che soprattutto hanno lavorato in questo film straordinario. Sì, e qui dice una cosa molto divertente, perché tu dicevi appunto 98, cioè Matt Damon e Ben Affleck erano giovanissimi e erano tutti e due, credo, autori della sceneggiatura, o almeno Ben Affleck, ed erano veramente due bambini prodigio del cinema all'epoca, sono passati 12 anni e quindi lui qui li prende in giro e dice, prima li ringrazia, thank you Ben Affleck and Matt Damon, e poi dice I still want to see some ID, però voglio ancora vedere le vostre carte d'identità, un po' come dire ma io non ci credo che voi a quest'età così giovani siete riusciti a mettere insieme, comunque essere l'anima di un film così importante, perché erano sia attori che appunto sceneggiatori della storia, oltre che amici tra l'altro loro due nella vita. E tra i ringraziamenti anche quello più romantico, insomma quello alla compagna della vita. Sì, che usa un'espressione bellissima, dice thank you Marsha for being the woman who lights my soul and my fire every morning, che tutte le mattine accendi la mia anima e il mio fire, cioè il fuoco che io ho dentro appunto tutte le mattine. Però subito dopo, anzi most of all, ancora più della moglie, vuole ringraziare his father, my father up there, che è morto, è lassù, e che quando gli disse, lui racconta questo aneddoto, quando gli raccontò che voleva diventare attore, gli rispose wonderful, but you have to have a backup profession, quindi una backup profession è una professione di riserva, quindi come dire che molti genitori all'epoca, ma forse anche oggi, considerano appunto i figli che vogliono fare questa vita da attori, forse così un po' a rischio di non avere lavoro, e quindi gli consigliano di avere un lavoro di riserva. A noi mi sa che ormai accade anche con i giornalisti, ma andiamo a sentire l'ultimo dei discorsi, è quello per l'Oscar a Marlon Brando per Il Padrino 1973. In realtà non salì lui sul palco, ma sentiamo cosa successe. Hello. My name is Sasheen Littlefeather. I'm Apache and I'm president of the National Native American Affirmative Image Committee. I'm representing Marlon Brando this evening, and he has asked me to tell you in a very long speech, which I cannot share with you presently because of time, but I will be glad to share with the press afterwards, that he very regretfully cannot accept this very generous award. And the reasons for this being are the treatment of American Indians today by the film industry, excuse me, and on television in movie reruns, and also with recent happenings at Wounded Knee. I beg at this time that I have not intruded upon this evening, and that we will, in the future, our hearts and our understandings will meet with love and generosity. Thank you on behalf of Marlon Brando. Ecco qui, Marlon Brando non salì sul palco, non era in teatro, salì questa giovane donna. Sì, dice, si chiamava Little Feather, piccola piuma, e dice I am an Apache, quindi è un Apache, appartiene alla tribù degli Apache, ed era, si dichiara, President of the Native American Affirmative Image Committee, quindi di questa commissione per un'immagine affirmative, quindi assertiva, potremmo dire in italiano, perché poi c'è tutto il discorso dell'affirmative action, che è tutto un movimento per dare spazio ai neri, quindi tutta una questione appunto sociale dei Native American, sappiamo che non bisogna assolutamente chiamarli indiani, ma Native American, nativi americani, ed è spiega perché c'è Ellie lei al posto di Marlon Brando, che appunto non è esattamente la stessa cosa. Tra l'altro lei aveva un discorso molto lungo che le aveva affidato Marlon Brando, e quindi sapeva di non avere tutto quel tempo, quindi ha detto I will be glad to share with the press, e poi ha spiegato perché questo boicottaggio. Sì, tra l'altro questo ci dà proprio l'idea di come gli americani rispetto agli italiani, cioè se c'è un tempo da rispettare in una speech lo rispettano, quindi anche in questo caso così eccezionale lei sapeva di avere solo poco tempo, quindi dice appunto come hai detto tu I will be glad to share tutte queste ragioni with the press. The reason for this being, cioè questa la ragione per questa cosa, cioè del fatto che Marlon Brando very regretfully, molto dispiacendosene molto, cannot accept this very generous award, non può accettare questo premio, è per il treatment of American Indians today, per il trattamento riservato agli American Indians by the film industry, quindi per l'industria del cinema, on television, on movie reruns, cioè quando vengono rimandati i film, e poi per tutto quello che riguardava la questione Wounded Knee, che è uno degli episodi più brutti degli scontri tra l'esercito americano e gli indiani. A Wounded Knee c'è stato un massacro, quindi tutte queste questioni che lo avevano fatto così arrabbiare che aveva fatto questo gran rifiuto. E tutto questo nella cerimonia degli Oscar del 1973, però sabato prossimo ascolteremo degli estratti dai nuovi Oscar che ci saranno domani notte. Giulia, ci ritroviamo sabato prossimo. Assolutamente, buona visione di cerimonia di Oscar a tutti, che è sempre divertente. Buona visione degli Oscar, noi invece ci ritroviamo sabato prossimo, sempre alla stessa ora. Vi ricordo anche che in edicola c'è il nostro English 24. Da Marta Cagnola l'augurio di una buona serata.